Capitolo 41. Le transazioni a cui Caleb Garth aveva accennato in quanto interconnesse fra Mr. Bulstrode e Mr. Joshua Rigg Firstone riguardanti il terreno annesso a Stone Court avevano dato origine allo scambio di un paio di lettere fra questi personaggi. Chi dirà mai quali possono essere gli effetti della scrittura, se si dà il caso che sia stata incisa nella pietra, sebbene questa giaccia ribaltata per secoli su una spiaggia desolata o riposi tranquillamente sotto i tamburi e calpestio di molte conquiste, alla fine può darsi che ci riveli i segreti di usurpazioni e altri scandali su cui si è spettegolato tanti imperi fa. Questo mondo è a quanto pare una galleria acustica. Tali condizioni sono spesso minutamente riprodotte nella piccola esistenza. Come la pietra, che è stata presa a calci da generazioni di zotici, può giungere per curiose piccole combinazioni di effetti sotto gli occhi di uno studioso, grazie alle cui fatiche può infine fissare la data di alcune invasioni e dischiudere il senso di certe religioni. Così, un pezzetto di carta inchiostrata, che da tempo un innocente involucro, un tappabuchi, può alla fine venire aperta sotto l'unico paio d'occhi capaci di trasformarlo nell'inizio di una catastrofe. Per Uriel, che osserva il progresso della storia planetaria dal Sole, un risultato sarebbe una questione di coincidenza quanto l'altro. Dopo aver fatto questo paragone piuttosto maestoso, mi sento meno imbarazzata ad attirare l'attenzione sull'esistenza di gente spregevole, dalla cui interferenza, per quanto poco si possa garbare, viene in larga misura determinato il corso della storia del mondo. Sarebbe bene, certo, poter contribuire a ridurre il loro numero e forse si potrebbe fare qualcosa non contribuendo a correggere la loro esistenza. Socialmente parlando, Joshua Rigg sarebbe stato generalmente definito un essere superfluo, ma coloro che, come Peter Firstone, non si erano mai sentiti chiedere una copia di se stessi, sono proprio gli ultimi ad attendere una richiesta del genere in prosa o in poesia. La copia, in questo caso, esteriormente, assomigliava più alla madre, nel cui sesso i lineamenti da rana, accompagnati da guance dai colori puliti e da una figura ben fornita di curve, sono compatibili con un gran fascino per un certo ordine di ammiratori. Il risultato, talvolta, è un masco dalla faccia di rana, che nessuna categoria di esseri intelligenti trova certo desiderabile. Soprattutto quando viene messo in mostra all'improvviso per frustrare le attese altrui, l'aspetto più sgradevole sotto cui una nullità sociale possa presentarsi. Ma le caratteristiche spregevoli di Mr. Rick Firston erano più del tipo sobrio e astemio. Dalla prima all'ultima ora del giorno era sempre lisciato, pulito e freddo come la rana a cui assomigliava, e il vecchio Peter aveva segretamente ridacchiato sul rampollo quasi più calcolatore e di gran lunga più imperturbabile di se stesso. Aggiungerò che le sue unghie erano scrupolosamente curate e che era sua intenzione sposare una signorina ben istruita, finora non meglio identificata, la cui persona era ben fatta e la cui parentela doveva innegabilmente appartenere alla solida classe borghese. Talché le sue unghie e la sua modestia erano paragonabili a quelle della maggior parte dei gentiluomini. Sebbene la sua ambizione fosse stata affinata solo dalle occasioni offerte a un impiegato contabile delle ditte commerciali minori di una città di mare, considerava i Firston di campagna gente assai sempliciotta e assurda, e questa a sua volta considerava la sua educazione in una città di mare un'esagerazione della mostruosità che il fratello Peter, e ancor più la proprietà di Peter, dovesse avere tali parenti. Il giardino e il viale gaiato, visti dalle due finestre del salotto rivestito di pannelli di legno a Stone Court, non erano mai stati tenuti meglio. Ora che Mr. Rigg Firston stava con le mani dietro la schiena, guardando fuori su questo parco nelle vesti di proprietario. Ma non si sarebbe potuto dire se guardava fuori per spirito di contemplazione o per volgere le spalle a una persona ritta in mezzo alla stanza, con le gambe considerevolmente divaricate, le mani nelle tasche dei pantaloni. Una persona sotto tutti gli aspetti in contrasto con lucidato e freddo Rick. Era un uomo che ovviamente andava verso la sessantina, assai florido e villoso, con molto grigio nei folti favoriti e nella fitta chioma ricciuta. Un corpo piuttosto pingue, che mostrava proprio di scapito le giunture alquanto consunte degli abiti e l'aria da spaccone che avrebbe voluto farsi notare anche a uno spettacolo di fuochi d'artificio. poiché pensava che probabilmente le sue osservazioni sulle esecuzioni di qualsiasi altra persona fossero più interessanti delle esecuzioni stesse. Il suo nome era John Raffles e talvolta scriveva scherzosamente WAG dopo la propria firma, osservando, quando così faceva, che una volta aveva avuto come insegnante Leonard Lamb di Finsbury, che scriveva BA dopo il proprio nome e che lui, Raffles, aveva inventato la spiritosaggine di chiamare quel celebre direttore Balemb. Tali erano l'aspetto e l'atteggiamento mentale di Mr. Raffles, i quali sembravano emanare un odore stantio da stanza dei viaggiatori degli alberghi commerciali di quel periodo. Andiamo via, Josh, stava dicendo costui in un tono che era tutto rombo. Guarda la cosa sotto questa luce. Ecco la tua povera madre che si avvia verso la vecchiaia e tu potresti permetterti di essere generoso con lei adesso per concederle degli agi. Non finché siete al mondo voi. Nulla potrebbe farla stare a suo agio finché voi vivete, ribatté Rigg con la sua voce fredda e squillante. Quello che le darei ve lo prendereste voi. Mi porti rancore, Josh, questo lo so, ma andiamo via da uomo a uomo senza ipocrisia. Un po' di capitale mi potrebbe consentire di fare del negozio un'azienda di prima categoria. Il commercio del tabacco si sta sviluppando. Mi taglierei il naso se non lo sfruttassi meglio che posso. Mi cincollerei come una pulce alla lana per il mio tornaconto. Sarei sempre sul posto e nulla renderebbe la tua povera madre così felice. È già da tempo che ho finito di correre la cavallina. Ho superato i 55. Voglio sistemarmi nell'angolo del mio caminetto. E se una volta mi impegnassi a fondo nel commercio del tabacco, potrei mettere in opera una quantità di intelligenza e di esperienza che non si troverebbe facilmente altrove. Non voglio star qui a seccarti una volta dopo l'altra, ma instradare le cose nella direzione giusta una volta per tutte. Considera questo, Josh, da uomo a uomo. È la tua povera madre a cui bisogna dare tranquillità per il resto della vita. Sono sempre stato innamorato della vecchia, per Giove. Avete finito? Chiese Mr. Rick con calma, senza distogliere gli occhi dalla finestra. Sì, io ho finito, disse Raffles, afferrando il cappello che era posato davanti a lui sul tavolo e dandogli una specie di spinta oratoria. Allora ascoltatemi. Quanto più parlerete, tanto meno vi crederò. Quanto più vorrete che faccia una cosa, tanto più avrò motivo per non farla mai. Pensate che voglio dimenticare i calci che mi avete dato quando ero un ragazzo e che avete sottratto a me e a mia madre tutto il cibo migliore? Pensate che dimentichi che venivate sempre a casa per vendere e intascare tutto? E ve ne andavate di nuovo lasciando noi nei pasticci. Sarei lieto di vedervi frustare legato in fondo a un carro. Mia madre è stata una stupida con voi. Non aveva nessun diritto di darmi un patrigno. E per questo è stata punita. Le sarà pagato il sussidio settimanale e nient'altro. E anche quello le verrà meno se osate venire ancora in questo posto o corrermi dietro di nuovo in questo paese. La prossima volta che vi farete vedere all'interno del cancello. Sarete cacciati via coi cani e con la frusta del carrettiere. Come Rig pronunciava queste ultime parole, si girò e guardò Raffles con i suoi gelidi occhi protuberanti. Il contrasto era enorme, come avrebbe potuto esserlo 18 anni prima, quando Rig era un ragazzo assai poco seducente da prendere a calci e Raffles era l'adone piuttosto tozzo di birrerie e di sale di conversazione sul retro. Ma ora il vantaggio stava dalla parte di Rig, e chi avesse ascoltato questo dialogo probabilmente si sarebbe aspettato che Raffles si ritirasse con l'aria di un cane bastonato. Proprio per niente. Fece una smorfia come di consueto quando era messo fuori combattimento in un gioco. Poi si lasciò andare a una risata ed estrasse un flacone di brandy dalla tasca. Andiamo, Josh, disse in tono allettante. Dammi un bicchierino di brandy e una sterlina per pagarmi il viaggio di ritorno e me ne andrò. Parola d'onore. Me ne andrò defilato come una pallottola per Giove. State attento, disse Rig, estraendo un mazzo di chiavi. Se mai vi dovessi rivedere, non vi parlerò. Non vi riconosco più di quanto potrei fare se vedessi un corvo. E se voi vorrete riconoscere me, non otterrete nulla tranne la fama di essere quello che siete, un farabutto velenoso, impudente e prepotente. È un peccato, via Josh, disse Raffles, dando a vedere di grattarsi il capo e di aggrottare la fronte come se fosse imbarazzato. Io ti voglio molto bene per Giove, sì? Non c'è niente che mi piaccia di più di tormentarti. Sei così simile a tua madre e devo rinunciarci, ma il brandy e la sterlina sono affare fatto. Porse il flacone e rigandò verso un bel vecchio comò di quercia con le chiavi. Raffles si era ricordato, muovendo in quel modo il flacone, che questo si era pericolosamente allentato dalla sua guaina di pelle, e visto una carta ripiegata che era caduta all'interno del parafuoco, la raccolse e la spinse sotto il cuoio in modo da fissare il contenitore. In quel momento Rig si fece avanti con una bottiglia di brandy, riempì il flacone e porse a Raffles una sterlina, senza né guardarlo né parlargli. Dopo aver di nuovo chiuso a chiave il comò, si diresse verso la finestra e si mise a guardare fuori con la stessa impassibilità con cui l'aveva fatto all'inizio del colloquio, mentre Ralph si prendeva dal flacone una piccola sorsata. Lo richiudeva e se lo infilava nella tasca laterale con lentezza provocante, facendo una boccaccia alle spalle del figliastro. Addio, Josh, per sempre, disse Ralph svolgendosi indietro, volgendo indietro il capo mentre apriva la porta. Rick lo vide lasciare il parco e imboccare il viale. La giornata grigia si era avvolta in una leggera pioggerella che rinfrescava le siepi e i lati erbosi delle vie secondarie e induceva ad affrettarsi i braccianti che stavano caricando le ultime biche di grano. Raffles, procedendo con l'andatura imbarazzata di un fannullone cittadino obbligato a fare un piccolo percorso a piedi in campagna, aveva un aspetto così fuori posto fra questa umida quiete e la laboriosità rurale, come se fosse stato un babbuino fuggito da uno zoo. Ma non c'era nessuno che lo osservasse, tranne i vitelli da tempo svezzati, e nessuno che mostrasse di non gradire la sua apparizione, tranne le piccole arvicole che si allontanarono frusciando al suo approssimarsi. Fu abbastanza fortunato, quando raggiunse la strada maestra, d'essere raggiunto dalla diligenza che lo portò a Bressing e là prese il treno della ferrovia appena costruita, facendo osservare ai suoi compagni di viaggio che la considerava ben collaudata ora che aveva provocato la morte di Huskinson. Mr. Raffles, nella maggior parte delle occasioni, conservava l'impressione di essere stato istruito a un'accademia e di essere in grado, quando voleva, di essere ben accetto ovunque. In effetti non c'era uno dei suoi simili che non si sentisse capace di prendere in giro e di tormentare, fiducioso di divertire in tal modo tutto il resto della compagnia. Ora, sostenne questa parte con tanto spirito come se il suo viaggio fosse stato coronato da un successo completo, ricorrendo di frequente al suo flacone. La carta con cui l'aveva fermato era una lettera firmata Nicholas Bulstrode. Ma non era probabile che Raffles l'andasse a togliere dalla sua attuale utile posizione. Capitolo 42. Una delle visite professionali compiute da Lydgate subito dopo il suo ritorno dal viaggio di nozze ebbe come meta Lowick Manor, in seguito a una lettera in cui gli veniva richiesto di fissare un appuntamento per una visita. Mr. Casaubon non aveva mai interrogato Lydgate sulla natura della propria malattia e non aveva mostrato neppure a Dorothea alcuna ansia di sapere fino a che punto tale malattia potesse troncargli il lavoro o la vita. A questo proposito, come per ogni altra cosa, egli evitava la compassione e se il sospetto di essere compatito per qualcosa che si supponeva o conosceva del suo destino a dispetto di lui stesso lo amareggiava, l'idea di provocare un'esibizione di pietà, con la franca ammissione di essere allarmato o addolorato, era necessariamente intollerabile. Ogni mente orgogliosa sa qualcosa di questa esperienza, che forse si può vincere solo con un senso di fratellanza abbastanza profondo da far sembrare meschino e gretto, invece che esaltante ogni sforzo per isolarsi. Ma Mr. Casaubon rimuginava su qualcosa in merito a cui la questione della salute e della vita ossessionavano il suo silenzio con un'insistenza anche più fastidiosa, persino della questione della acerbità autunnale della sua condizione di autore. È vero che quest'ultima si sarebbe potuta definire la sua ambizione massima, ma ci sono alcuni tipi di paternità letteraria in cui il risultato di gran lunga maggiore è l'imbarazzata suscettibilità accumulata nella coscienza dell'autore. Uno si accorge del fiume, da alcuni rigagnoli in un deposito di fango sgradevole accumulatosi da tempo. La stessa cosa accadeva per le dure fatiche intellettuali di Mr. Casaubon. Il loro risultato più caratteristico non era la chiave di tutte le mitologie, ma la consapevolezza che altri non gli concedevano il posto che non aveva dimostrato di meritare, una perpetua supposizione sospettosa che l'opinione intrattenuta sul suo conto non fosse positiva, una malinconica assenza di passione nei suoi sforzi per raggiungere un risultato e un'appassionata resistenza alla missione di non aver conseguito nulla. Talché la sua ambizione intellettuale, che ad altri sembrava averlo assorbito e dissecato, non gli offriva in realtà alcuna difesa contro le ferite, meno che mai quelle che gli venivano da Dorotea. E ora aveva cominciato a escogitare soluzioni per il futuro che in un certo senso lo esacerbavano più di qualsiasi altra cosa su cui la sua mente si fosse soffermata in precedenza. Contro certi dati di fatto era inerme, contro l'esistenza di Will Ladislav, la sua permanenza provocatoria nelle vicinanze di Lowick e la sua sfacciata opinione riguardo al possessore di un'erudizione autentica e ben definita, contro la natura di Dorotea, che assumeva sempre qualche nuova forma di ardente attività e persino con la sottomissione, con il silenzio, copriva certi ragionamenti fervidi, il cui solo pensiero lo irritava, contro certe idee e preferenze che le erano entrate in capo riguardo ad argomenti che egli non poteva assolutamente discutere con lei. Non si poteva negare che Dorotea fosse la giovane più virtuosa e bella che egli avrebbe potuto ottenere in moglie. Ma una giovane che si era rivelata un po' più molesta di quanto avesse immaginato. Lo curava, gli leggeva, preveniva i suoi desideri, si preoccupava dei suoi sentimenti, ma nella mente del marito si era insinuata la certezza che lei lo giudicasse e che la sua dedizione di moglie fosse come una penitenza inflitta ai suoi pensieri scettici. Era accompagnato da una capacità di confronto per cui lui e le sue azioni erano visti troppo chiaramente come una parte di un tutto più ampio. Lo scontento di lui impregnava come un vapore tutte le sue gentili manifestazioni d'affetto e si attaccava a quel mondo che non lo apprezzava e che lei gli aveva soltanto portato più vicino. Povero Mr. Casabo, questa sofferenza era tanto più dura da sopportare perché sembrava come un tradimento. La giovane creatura che lo aveva adorato con perfetta fiducia si era rapidamente trasformata in una moglie critica e i primi esempi di critica e di risentimento gli si erano impressi a tal punto che poi nessuna tenerezza e sottomissione li aveva potuti cancellare. Per la sua mente sospettosa, il silenzio di Dorotea ora era una ribellione soffocata, un'osservazione da parte di lei che egli non aveva in alcun modo previsto, era un'asserzione di consapevole superiorità. Le sue risposte gentili celavano una cautela irritante e quando lei accondiscendeva compiva uno sforzo consapevole di tolleranza. La tenacia con cui egli tentava di celare questo dramma interiore glielo rendeva più intenso. Come odiamo con maggiore intensità ciò che desideriamo che gli altri non odano. Invece di meravigliarmi di questa conseguente infelicità in Mr. Casabo, la considero del tutto ordinaria. Una macchiolina molto prossima al nostro occhio non cancella forse il fulgore del mondo e non lo lascia solo un margine grazie al quale vediamo la macchia? Non conosco nessuna macchiolina irritante come l'io. E chi, se non Mr. Casabo, avesse deciso di rivelare le sue insoddisfazioni, il suo sospetto di non essere più adorato senza critiche, avrebbe potuto negare che fossero fondate su buoni motivi? Al contrario, vi era un buon motivo da aggiungere, che egli stesso non aveva esplicitamente preso in considerazione, vale a dire che egli non era adorabile senza riserve. Di ciò, tuttavia, aveva il sospetto, come sospettava di altre cose, senza confessarlo e al pari del resto di noi. Avvertiva come sarebbe stato bello avere una compagna che non l'avesse mai scoperto. Questa dolorosa suscettibilità riguardo a Dorotea era completamente sviluppata prima che Will Ladislaw fosse tornato a Lowick e ciò che era avvenuto da allora aveva portato all'esasperazione la capacità di Mr. Casabo di giungere a interpretazioni sospettose. A tutti i fatti di cui egli era a conoscenza, egli aggiungeva fatti immaginari, sia presenti che futuri, che divenivano per lui più reali degli altri, perché suscitavano un'antipatia maggiore, un'amarezza più soverchiante. Il sospetto e la gelosia per le intenzioni di Will Ladislav, il sospetto e la gelosia per le intenzioni di Dorotea, tessevano continuamente la loro trama. Per Per lui sarebbe stato del tutto giusto supporre di aver potuto essere incorso in qualche rozzo malinteso su Dorotea. I suoi stessi abiti mentali e la condotta, quasi nella stessa misura dell'aperta nobiltà della natura di lei, gli impedivano di commettere un simile errore. Ciò di cui egli era geloso era l'opinione di lei, il dominio che avrebbe potuto acquisire la sua mente ardente nei suoi giudizi e le future possibili conclusioni a cui questi l'avrebbe potuta condurre. Quanto a Will, sebbene fino alla sua ultima lettera provocatoria egli non avesse nulla di preciso di cui avrebbe voluto formalmente accusarlo, lui stesso si sentiva giustificato nel credere che fosse capace di qualsiasi progetto che potesse affascinare un temperamento ribelle e un'impulsività sfrenata. Era assolutamente certo che Dorotea era la causa del ritorno da Roma di Will e della sua determinazione di sistemarsi nelle vicinanze. Ed era abbastanza acuto da immaginare che Dorotea avesse innocentemente incoraggiato questa linea di condotta. Era assolutamente chiaro che lei era pronta a prendere le parti di Will e essere malleabile ai suoi suggerimenti. Non avevano mai avuto un tête-à-tête senza che lei ne uscisse con una qualche nuova idea importuna. E l'ultimo colloquio di cui Mr. Casaubon era a conoscenza, Dorotea, tornata dal palazzo di Freshitt per la prima volta, aveva taciuto di aver visto Will, aveva condotto a una scenata che suscitava contro entrambi un sentimento più adirato di quanto egli avesse mai conosciuto. La manifestazione da parte di Dorotea delle sue idee sul denaro, nell'oscurità della notte, non aveva fatto altro che versare nella mente del marito un miscuglio di più detestabili presagi. E c'era, sempre, tristemente presente, la scossa data ultimamente alla sua salute. Certo, si era assai ripreso, aveva recuperato tutta la sua consueta capacità lavorativa. La malattia poteva essere semplice affaticamento e poteva darsi che lo aspettassero ancora 20 anni di conquiste, che avrebbe giustificato i 20 anni di preparazione. La prospettiva era resa ancora più dolce da un sapore di vendetta contro i precipitosi sogghigni di Kerp e soci, poiché anche quando Mr. Casaubon portava il suo cero fra le tombe del passato, quelle figure contemporanee gli attraversavano la luce incerta e interrompevano la sua diligente esplorazione. Convincere Kerp del suo errore, cosicché avesse dovuto rimangiarsi le proprie parole con una bella indigestione, sarebbe stato un evento gradito nel suo trionfo di autore e la prospettiva di vivere per i secoli futuri in terra e per tutta l'eternità in cielo non poteva escluderlo dalla sua contemplazione. Dal momento che in tal modo la previsione della propria eterna beatitudine non poteva cancellare gli amari sapori dell'irritata gelosia e dello spirito di vendetta, tantomeno sorprende che la possibilità di una transitoria beatitudine terrena per altre persone, quando egli stesso sarebbe potuto salire alla gloria, non lo addolcisse potentemente. Se la verità fosse stata che qualche malattia demolitrice era all'opera nel suo corpo, alcune persone potevano avere ampi motivi per essere felici quando egli fosse morto. E se una di queste dovesse essere Will Ladislaw, a Mr. Casaubon era talmente sgradito che sembrava quasi che l'irritazione facesse parte della sua esistenza disincarnata. Questo è un modo molto crudo e quindi incompleto di presentare la cosa. L'anima umana si muove in molti sensi e Mr. Casaubon, lo sappiamo, aveva il senso della rettitudine e l'orgoglio di soddisfare le esigenze dell'onore, che lo spingeva a trovare per la propria condotta altri motivi, diversi dalla gelosia e dallo spirito vendicativo. Il modo in cui Mr. Casaubon presentava le cose era questo: nello sposare Dorotea Brooke, io ho dovuto preoccuparmi del suo benessere nel caso che io muoia. Ma il benessere non deve essere assicurato da un possesso ampio e indipendente della proprietà. Al contrario, potrebbero presentarsi delle occasioni in cui un tale possesso potrebbe esporla a un pericolo ancora maggiore. Lei è facilmente preda di qualsiasi uomo che sa come influire abilmente sul suo ardore affettuoso o il suo entusiasmo donchisciottesco. E un uomo sta ad aspettare proprio con quell'intenzione in mente, un uomo privo di ogni principio che non sia il suo capriccio fugace e che nutre un'animosità personale verso di me? Ne sono certo. Un'animosità che è alimentata da una consapevolezza della sua ingratitudine e a cui egli ha sempre dato sfogo col ridicolo, di cui sono certo, come se l'avessi udito. Anche se vivrò, non sarò mai libero dall'inquietudine di ciò che egli possa tentare attraverso un influsso indiretto. Quest'uomo si è accattivato l'orecchio di Dorotea, ha affascinato la sua attenzione e evidentemente ha tentato di imprimerle nella mente l'idea che egli ha dei diritti che vanno al di là di qualsiasi cosa io abbia fatto per lui. Se morirò, e lui sta aspettando qui per vedere se ciò accadrà, la persuaderà a sposarlo. Ciò sarebbe una calamità per lei e il trionfo per lui. Lei non la considererebbe una calamità, egli le farebbe credere qualsiasi cosa. Lei ha una tendenza a un attaccamento smodato, a cui in cuor suo mi rimprovera di non corrispondere e già la sua mente pensa alle fortune di lui. Lui pensa a una facile conquista ad entrare nel mio nido. Questo io lo impedirò. Un tale matrimonio sarebbe fatale per Dorotea. Egli ha mai persistito in qualcosa tranne che nel contraddirsi? Nel sapere ha sempre cercato di far figura a poco prezzo. In religione, egli potrebbe essere, finché gli si adattasse, la facile eco delle stravaganze di Dorotea. Quando mai una facile infarinatura è stata disgiunta dal lassismo morale? Io diffido completamente della sua morale ed è mio dovere impedire al massimo la realizzazione dei suoi progetti.